niente da fare, non so da quale cominciare. Non ho poi le idee così chiare, non ancora. Forse il tempo mi aiuterà. E aspettando quell'ora ogni volta ricomincerò. Che cosa c'è? Non ancora morto, ma verrà da sé. Ma verrà da sé. Modo di indovinare, non ancora quel che il tempo prepara per me, ma rischiando la sorte stavolta forse mi pentirò. Oh, e rimpiangerò.